America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. I'm a student at Brooklyn School for Global Studies. Definitely something that's going to change me. It's going to be something I will carry on for the rest of my life. Ecco, avete sentito questa dichiarazione di un ragazzo che ha appena vinto una borsa di studio per venire a studiare in Italia. Avete sentito che è citato? Cosa diceva? Diceva, vabbè, per me è un'avventura questa che in qualche modo mi cambierà la vita. Ma sentiamo un'altra dichiarazione. She's actually my only daughter. All right. I think the learning experience definitely will expand her mind in so many ways. Ecco, questi sono i genitori di un altro ragazzo, sono 5 scuole di New York che hanno partecipato a questo concorso e sono scuole, beh, diciamo qui le chiamano challenged, sono delle scuole difficili, sono delle scuole a volte nelle inner cities. Pensate, addirittura in alcune di queste scuole ci sono i metal detector per controllare che non ci siano coltelli o armi o cose di questo genere. Dunque, il fatto che questi ragazzi siano riusciti a partecipare pare a vincere un concorso sul Rinascimento organizzato da Palazzo Strozzi qui negli Stati Uniti è di per sé straordinario. Sentiamo un insegnante, perché anche loro col Department of Education hanno contribuito a questa iniziativa. I've had many discussions with the students about what they're going to see. So all the stuff we studied all year, she's going to be able to like be in front of it. Sistine Chapel and the Caravaggios, and it's going to be an amazing experience. Ecco, l'insegnante dice che ci sono delle sfide, non tutti vincono, alcuni perdono, ma l'importante è aver studiato questa disciplina, il Rinascimento, l'umanesimo, che non sono studiate nella scuola pubblica americana. Devo dire, io mi occupo in prima persona di questa cosa, spesso vi parlo di filantropia, credo che tutti dovrebbero essere in un modo o nell'altro coinvolti nella filantropia. Nel mio caso, non ho fondi da donare, ma posso donare il mio lavoro e dunque questo aiuta, tutto aiuta. E devo dire, avevamo un paio d'ospiti d'eccezione l'altra sera, anche loro premiati per quello che hanno fatto nella filantropia, e cioè Richard Armstrong, il direttore del Guggenheim Museum, che ha portato tra l'altro molte mostre dedicate all'Italia, e Francesca Lavazza, consigliere di amministrazione della Lavazza, che ha, devo dire, fatto delle opere incredibili dal punto di vista della promozione anche della cultura in Italia e in America. E con me qui ai microfoni di America 24. Buongiorno Francesca. Buongiorno, grazie per avermi invitato. Allora Francesca, cominciamo dall'altra sera, perché lei era al 51esimo piano di Bank of America, dove c'era questa vista spettacolare, ma soprattutto c'erano questi ragazzi. Ecco, che impressione le ha fatto questa serata? Una serata straordinaria. La vista più bella non era solo quella del landscape sul New York, ma era proprio quello dei ragazzi, che in quella serata avevano veramente visto lungo, talmente lontano che vedevano l'Italia. Una serata emozionante in cui, è vero, loro hanno dichiarato che questa esperienza gli avrebbe cambiato la vita, ed è straordinario pensare che non solo l'arte può cambiare la vita, ma l'Italia stessa. Ecco, infatti una delle idee di questo progetto è di portare lo studio del Rinascimento e dell'umanesimo qui negli Stati Uniti. Secondo lei aiuterebbe? Ce n'è bisogno? C'è bisogno di studiare l'umanesimo? Come mai secondo lei qui non lo studiano? Non lo studiano perché probabilmente tengono conto e danno importanza a tutte le materie scientifiche, quindi alla ricerca, allo sviluppo, alla matematica, ma l'umanesimo fa parte di un percorso individuale e personale fortissimo, dalla capacità di pensare e di poter analizzare quelli che sono i valori concreti della civiltà, che portano ovviamente ad apprendere non solo nel campo delle arti, ma ovviamente anche dell'uomo stesso. Ecco, l'altra sera che cosa l'ha colpita di più? Questa gioia di questi ragazzini, 9 ragazzi, che poi insieme ad altri ragazzi di Detroit e di Los Angeles andranno appunto a Firenze per studiare a Villa La Pietra di NYU il Rinascimento, oppure il momento della premiazione, oppure quando 2 di loro hanno dato il discorso? Ci sono stati vari momenti interessanti. C'è stato qualcosa che l'ha colpita? C'erano i genitori, c'erano gli insegnanti? 2 momenti. Sicuramente il momento del discorso, in cui hanno parlato Carlos, un ragazzo di New York, e Frida, una ragazza messicana, quindi figli di immigrati. La loro serietà, la loro concretezza e il fatto che fossero veramente convinti del lavoro che hanno portato avanti, della ricerca, e di dover mettere l'uomo, in questo caso i giovani, al centro. Ecco, immigrati. Devo dire, in effetti, una delle cose che mi ha colpito di più anche in questo evento di Palazzo Strozzi dall'altra sera è che tutti questi vincitori sono tutti figli di immigrati. Non c'è l'americano classico come uno se lo può immaginare. E dunque questo è un paese straordinario, perché accoglie, come dire, dà un contesto di appartenenza a un paese e soprattutto può dargli delle prospettive. Ecco, mi viene in mente, perché devo dirvi che vi sto parlando in questo momento con Francesca Lavazza dal Guggenheim Museum. Siamo al Museo Guggenheim. Guggenheim, meraviglioso museo, dove c'è la mostra di un altro immigrato, un immigrato dall'Ungheria agli Stati Uniti, ma un grande artista, una grande retrospettiva dedicata a Moholy Nagy, che è un artista ungherese che si forma negli anni 20 dal punto di vista della sua idea, della sua produzione, ma che è stata sponsorizzata questa mostra anche da voi, quindi la vostra filantropia non ha, avete fatto anche qui al Guggenheim il futurismo, avete fatto poi Burri, come mai un ungherese questa volta? Un ungherese, diciamo che è un europeo, perché è veramente un artista visionario, è il primo artista multimediale che ha avuto la capacità di lavorare con la fotografia, la filmografia, il collage, il dipinto, la scultura, ed è stato veramente un artista che ha saputo dare alla luce la sua importanza, il primo che ha pensato che la luce fosse veramente una forma di scrittura. Ecco, lui poi è venuto negli Stati Uniti, quindi c'è un legame anche con l'America. È venuto negli Stati Uniti, e precisamente a Chicago, e infatti le sue opere che ha fatto qui a Chicago si chiamano Che Beata, che nel senso CH come Chicago è Beata, perché per lui è stato un momento straordinario. Ecco, la Vazza che fa filantropia nell'arte, fa cultura, è già qualche anno che lo fate. Come mai questo matrimonio con il Guggenheim Museum in particolare? È il terzo anno che siamo a fianco del Guggenheim nelle sue mostre più importanti, e per noi il Guggenheim è un partner straordinario che ci ha dato la capacità di utilizzarlo proprio come un teatro, un palcoscenico per raccontare di Lavazza, quindi del nostro prodotto, della nostra storia, ma anche proprio della nostra cultura e dell'Italia. Ecco, e questo aiuta il vostro business in qualche modo in America? Vi dà visibilità? Ci dà moltissima visibilità, ma ci dà l'occasione proprio di contattare le persone e raccontare non solo quello che facciamo, ma che siamo in grado di pensare e di proporre. Ecco, devo dire, in quest'epoca in cui si parla di innalzare mura, l'idea di creare dei ponti, soprattutto un ponte transatlantico ancora più forte, credo sia molto importante. Mi ha colpito quello che ha detto, non solo Italia ma Europa. Ne abbiamo bisogno in Europa di mostrarci un po' uniti, o no? L'Unione Europea è fondamentale non solo per la nostra personalità, per la nostra identità, ma sicuramente per il nostro futuro e la nostra scena politica. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ho sempre con me qui ai microfoni di America 24 Francesca Lavazza, e dunque dovrà scegliere lei, come tradizione, la canzone. Cosa scegliamo, Francesca? Che canzone dedichiamo ai nostri ascoltatori? Mi è venuta in mente l'ultima canzone lanciata da Jennifer Lopez, che si intitola No Ain't Mama, che è uscita proprio durante la festa della mamma, e visto che quest'anno in America, nella scena politica e nella corsa alle elezioni americane, c'è una donna, Hillary Clinton, mi sembra veramente di buon auspicio per non solo per lei ma per tutte le donne. Ottimo, J-Lo, No Ain't Mama, speriamo che sia davvero di buon auspicio per Hillary, perché in questi giorni ne ha davvero molto bisogno. I ain't gonna be cooking all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gon' get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!